però tu fai, ma senti che la voce dice dove vai. Vai, affilatissimo stiletto tu hai, con mamma dopo tanto credi che ce la farai. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo corre senza pudore. Vecchie immagini, santi stupidi, tutte lasciano così com'è. Vieni avanti, non ci pensare, storia viaggia insieme a te. Corri forte ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, non ti fermare, il fuoco brucia la tua virtù. Alza il pugno senza tremare, guarda il dito, la tua lontana. Guarda avanti, non ci pensare, storia fatto.